C'è come un sentimento nuovo che mi rincorre, si propone in questa casa, in questa storia, in questo giorno senza nome, con un entusiasmo antico, mentre in mezzo a questa piazza sto ridendo e ripensarmi una bellissima ragazza. Facevano morire il tuo sorriso, la parola che mi faceva stare bene, come adesso che mi perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente di diverso, che non sia il mio tempo perso. Ho un cuore appassionato, quasi allegro, quasi triste, che si posa quasi sempre su qualcosa che già esiste. C'è come un sentimento nuovo che mi trova spaesata in mezzo a piccoli dettagli di una bellissima giornata. È da un po' che preferisco andare a letto presto, ma la notte spesso sogno e la notte spesso esco. Perdo davanti a questo fiume e trovo strade senza gente e pensieri senza niente di diverso, che non sia il mio tempo perso, con un entusiasmo antico in mezzo a questa piazza sto ridendo e ripensando una bellissima ragazza.